In the summertime, tempo d'estate ancora lontano, anche se la temperatura vera e propria è abbastanza vicina alla fine della primavera, inizio estate, piacevole, si sta bene. Siamo entrati negli ultimi 60 minuti a nostra disposizione, le 11:03 su Rock FM, la voce di Marco Gravelli. Allora cominciamo a regalare qualcosa. Vi avevo anticipato, nell'ultima ora regaleremo sia il videogame della settimana, sia due biglietti alle prime due persone che invieranno un sms al nostro numero 335-100-7777. Concerto che si terrà a Milano, il locale l'Alcatraz, la giornata è il 21 di maggio. Un'artista femminile, una grande voce, una bella persona, anche fisicamente, è Tarja Turunen, già cantante dei Nightwish. Quindi il vostro nome e cognome, indirizzate l'SMS se vi va, se volete andarla a vedere, se volete partecipare al suo concerto. E questa è proprio lei. Concerto che si terrà il prossimo, non il prossimo ma l'altro ancora, a livello di settimana, il 21 di maggio all'Alcatraz di Milano, già cantante dei Nightwish, proporrà canzoni da questo suo album solista e sicuramente non mancherà, se non un medley, qualcosa dei Nightwish, sicuramente verrà proposto sul palco. Complimenti a Roberto e Valentina, sono stati i più svelti ad inviare il proprio sms e ad aggiudicarsi i biglietti, ne abbiamo ancora, li regaleremo nel corso delle prossime giornate. Quindi saluto anche Maddalena, per Giorgio, Mauro, Antonio e Matteo che hanno inviato l'SMS, ma sono arrivati dopo Roberto e dopo Valentino. Quindi già magari nel pomeriggio insieme a Max avrete modo di vincere altri biglietti per questo e altri concerti. Call me on the phone to tell me you're alone. Il grande Billy Idol alle 11:12 primi. Oggi vedo tramite il nostro sito www.rockfamily.it che è il compleanno di Grimmy, di Rosy e di Anto Duerema, tra i 900 quasi 1000 iscritti del sito rockfamily.it, quindi gli faccio gli auguri, quindi sia a Grimmy sia a Rosy che al nickname di Anto Duerema. Dedichiamo loro questa canzone, Joe Walsh, Rocky Mountain Way. menu in his hand. Walking through the streets of Soho in the rain, he was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran him up in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Werewolves of London. Werewolves of London, Warren Zevon, un saluto d'Elio da Poggi Bonsi. Poi, Claudia? Provo a chiamare Claudia, chi è? Claudia, potresti venire in diretta. Mi chiedono se regaleremo biglietti per il concerto dei Queenstrike. Noi non ci saremo più, no. Non li abbiamo qui. Cari ragazzi, alcune cose. No, alcune però, cose non le abbiamo. Però no, qualche festival ci forse troviamo. Sì. Ci troviamo. Però, ad esempio, Bad Religion, sì. Proprio non c'entra niente con i. Con i Queenstrike, però. Ascoltateci, che in questi giorni stanno arrivando ancora altri concerti. Riusciamo a raccattare. Se qualcosa. Riusciamo, ben volentieri ve li omaggiamo, cari amici. Saluto di nuovo Rosy, che è stata citata naturalmente tra quelli che compiono gli anni quest'oggi, che in questo momento sono tra gli iscritti a rockfamily.it. Noi continuiamo con 10 Years After, I Love to Change the World. Bellissimo brano strumentale, uno dei pochissimi strumentali incisi nella loro carriera dai Grand Funk Railroad, in questo terzetto. Addirittura mi sto accorgendo che viene utilizzato. Avrò sentito non so quante volte questo pezzo, soltanto ora mi accorgo che c'è anche il violino in sottofondo, sono proprio stordito. Grand Funk Railroad con Flight of the Phoenix. Tra pochissimo appuntamento con Backstage Pass insieme a Chuck Bird, ma è il momento del regalo del videogame della settimana. Videogame che porta il nome di Iron Man, questo famoso personaggio, è appena uscito anche il film, quindi Iron Man per console Xbox 360. Come sempre, inviate a partire da questo istante il vostro nome, cognome e la città da dove scrivete al 335 100 7777.